Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi entra nel Santa Santorum degli esperti del fumetto italiano, perché parliamo con Luca Boschi, blogger, disegnatore, figura che è stata sempre presente nelle strips più conosciute, da quelle di Walt Disney a Matt Groening, a Popeye, a Coco Bill, animatore della scuola di cinema e fumetti animazione della scuola internazionale di comics di Firenze, già direttore culturale di Luca Comics, di Napoli Comic Con, di altre mille iniziative, ha legato suo nome a molti dei fumettisti più importanti italiani. Dunque, oltre che essere un saggista importante, segnaliamo di recente uscita questa Italia Ride, appunto di Luca Boschi, stampato per la NAFI, l'amici del fumetto. Italia Ride, un'avventurosa epopea, leggo nel sottotitolo, del fumetto italiano comico nel dopoguerra, e quindi un libro di grande spessore, di grande conoscenza. E allora noi usiamo questo importante testimone del fumetto per sapere di più su un talentuoso illustratore del Pioniere come Clario Nesti, che al pari di tanti altri suoi colleghi ha diviso la sua vicenda artistica tra l'illustrazione e la pittura. Nella seconda parte della nostra trasmissione invece parliamo con Laura Papa, che è curatrice della collana bestseller Giallochina, che ha prodotto questo Miserere, un noir in fumetto con la sceneggiatura di Vito Bruschini e l'illustrazione di Vincenzo Giordano. Con Laura faremo un po' il quadro generale, e a seguire prima Vito Bruschini sceneggiatore, quindi Vincenzo Giordano illustratore, se darà maggiori dettagli su questa opera. Buon ascolto. Luca Boschi, tu sei uno dei pochi che hai approfondito la conoscenza di Clario Onesti, e però anche di Clario Onesti infatti si sapeva molto poco. Adesso anche grazie al tuo lavoro, anche a te, si sa qualcosa in più. Raccontaci la storia di questo artista che ha lavorato anche per il giornale illustrato Il Pioniere, di cui noi ci occupiamo. Beh, e poi ha anche illustrato quella famosissima copertina legata alla resistenza, illustrata nel senso di fatta a mezza tinta come un'illustrazione vera e propria, non astratto come le vignette dei fumetti, che poi è stata usata anche per un volume scritto da Pierluigi Gaspa sulla storia del fumetto e la resistenza. Clario Onesti come figura non è atipica, anche se passa in modo quasi come una meteora attraverso il mondo del fumetto, non così poco, però le sue tracce sono difficili da ricollegare tra loro, perché appunto oltre al Pioniere passa anche la grande stampa popolare. Si può parlare per esempio dell'Intrepido o di Albi dell'Intrepido, che sono due settimanali, non più giornalini, ma albi, l'Intrepido inteso come tascabile e l'Albo dell'Intrepido come leggermente più grande, con una media di 4 strisce di fumetto per pagina. Albo monografico, con titoli diversi ogni settimana, tiratura altissima, vendita altissima, centinaia di migliaia di copie appunto tra gli anni 50 e gli anni 60, e con un ventaglio di disegnatori e di sceneggiatori diverso che francamente oggi fa impressione. Persone che lavoravano a ritmi, come appunto Clario Onesti, estremamente sostenuti in questo settore, che dovevano produrre molte tavole al giorno. Adesso, se va bene, un disegnatore si dà come traguardo una tavola al giorno, quindi 30 tavole al mese circa in media. All'epoca bisognava, per stare nei ritmi, anche farne 4-5, quindi era necessaria una capacità artigianale, raffigurativa molto spiccata. Non a caso alcuni di questi disegnatori di fumetti, come Clario Onesti, erano pittori e avevano una formazione accademica molto robusta. Poi sarebbero rientrati in questo giro. Ecco, questo è quello che accade a lui, ma accade a Cremonini, ad altri autori del suo giro. Hanno un passaggio nell'ambito dei fumetti perché ti dà la possibilità di produrre subito e onestamente guadagnare subito dei soldi, cosa che nel mondo dell'arte degli anni 50 e 60 è decisamente più difficile. Quindi con questi, non voglio dire pochi maledetti e subito, ma per intendersi, fingiamo che sia così, uno poi si crea un suo immaginario diverso, anche dal punto di vista stilistico, e ha la possibilità di coltivare una sezione di pittura che poi emergerà in un secondo tempo, quando il fumetto sarà definitivamente abbandonato. Io posso considerare come momenti più importanti dell'attività fumettistica di Ilario Onesti, alcune cose della sua vita. Il momento principale è quando nel 1960, ed è una delle volte in cui si può firmare, lavora per Intrepido Tascabile facendo una serie che si chiama Girano di Bergerac. È ovviamente una parodia del Cyrano di Bergerac, in stile semicomico. Questa è la sua cifra abbastanza strana, perché mentre sul Pioniere disegna le storie che si richiedono di avventura, anche western, ma per lo più ambientate nella sua società, comunque sia nel Novecento, in questo caso sull'Intrepido è estremamente versatile e passa dal realismo degli albi dell'Intrepido al semicomico grottesco di Intrepido, cosa strana. Per un certo periodo ha una serie fissa che si chiama Semoli, Sem, tre puntini, Olino, Flash, che disegna insieme a Sergio Molino. Molino è un cognome ben noto per quella casa editrice, perché il più importante attore e illustratore è Walter Molino, che disegna molte copertine della Domenica del Corriere, per esempio, ma anche degli albi dell'Intrepido. Bene, questa serie Sem Olino Flash è fatta a quattro mani, ma l'impronta di Ilario Onesti è evidentissima nelle mie tratteggio a matita. Questa serie è verbosissima, perché i personaggi devono parlare tanto, scritti su testi di, si suppone, Luigi Grecchi e Corrado Zucca, ma c'è proprio una cucina redazionale che scrive queste cose, con un forte editing, di modo che il contributo autoriale di chi racconta in qualche modo sparisce sotto il peso dell'editing. Comunque perdiamo per buone questi due nomi, Grecchi e Zucca. Questa serie Semolino Flash è piena di testo. Si tratta di due fotografi, come il nome stesso dice, Flash, che hanno a che fare con delle storie, diciamo, giallo-comiche, grottesche, ambientate in un'America ipotetica che fa pensare ad Al Capone, però è un'America successiva, non degli anni 30 del Novecento. Una cosa interessante è che questa serie si sviluppa tra gli anni 50 e i primi anni 60. Poi in redazione decidono di prenderla e di travasarla su Monello, che è un Tascabile. Riprendono anche le vecchie storie di Ilario Onesti, ritagliano fisicamente le vignette, quando ormai Ilario Onesti è pittore, quindi non si occupa più di fumetti e non ha comunque voce in capitolo, e eliminano, vogliamo dire, il 50%, probabilmente anche di più, di testo. Questo significa che è cambiata la prospettiva del pubblico e negli anni 60 si può scrivere meno, non c'è più questo timore di dover scrivere tanto appositamente perché la letteratura deve prevalere sul disegno, quindi schermandosi da eventuali critiche fatte dai ben pensanti, dagli educatori, anche da un po' di politici. C'è un aggiornamento, c'è l'aggiornamento legato ai tempi. Sì, sì, assolutamente. E quindi questa serie, che si chiama a quel punto Sem e Pan, più diventa nota anche ai lettori della finissima degli anni 60. Nel 68-69 torna di scena, ahimè, c'è un vezzo purtroppo non buono, che è quello di cancellare il nome degli autori. Infatti il nome Onesti non appare più come appariva invece in precedenza. Questo fanno a molte volte gli editori. La cosa strana è che per un po' di tempo chi ha cercato di capire, di individuare l'identità di questo disegnatore, ha pensato che si chiamasse Claudio Onesti, cioè omonimo di Claudio Onesti, che poi è Claude, altro disegnatore che ha lavorato con Silver, con Bombi, anche adesso sta continuamente disegnando vignette su Nick Carter, che manda nel web, su Gulp Fumetti in TV. E lo stesso Claudio Onesti, da bambino, leggeva il Pioniere e leggeva il nome di Onesti, il cognome, o C puntato Onesti, e qualcuno a scuola gli diceva: ma questo sei tu? E lui non è che negasse sempre, a quello che ho capito. A volte si vantava di essere lui. infatti, anche perché poi la madre aveva, credo che di cognome si chiamasse Rinaldi. Insomma, sì, c'erano dei punti di contatto con il giornale, no? Ho capito almeno questo, che dentro un cuore onesto per la gioia c'è più posto. E che che negli occhi tutto ci sta, ma è da te che dipenderà, ci sta pure l'universo. Le prime mostre personali importanti di Claire Onesti invece come pittore risalgono proprio quando Sam e Pan escono sul Monello. Per esempio la prima, stando ai dati che ho, è del 1969 alla Galleria San Gottardo a Milano, poi a Santa Margherita Ligure nel 71, poi un'altra collettiva come l'immagine a Verbania, poi ancora a Salso Maggiore nel 77, e così si va avanti praticamente al ritmo di una mostra personale o collettiva ogni 2-3 anni. Anni fino agli anni 90, fino a quando, dopo il 1997, l'anno della scomparsa, il 5 marzo di Claire Onesti, continuano altri galleristi, addirittura l'anno stesso, a organizzare delle mostre su di lui. Per esempio nel 1997 c'è una sua personale al Museo Civico di Treviglio, l'anno successivo una che si chiama proprio Claire Onesti in Val di Sole, perché si tratta di paesaggi per lo più. Quello che c'è da dire è che la visione dell'immagine di Claire Onesti è sempre stata realistica, non c'è un tradimento, diciamo, in favore di una ricerca più astratta o comunque più sintetica, più contemporanea, potremmo dire, come invece altri suoi colleghi fanno. Si staccano nettamente dalla gabbia abbastanza asfittica del disegno del fumetto per andare in direzioni completamente diverse. No, Claire Onesti, diciamo, dal fumetto e dall'illustrazione, che conosciamo bene per il Pioniere, perché anche ci sono anche delle parti illustrate dove Onesti lavora soltanto come commentatore grafico di testi scritti, quindi non arte sequenziale per vignette, da questo lavoro illustrativo, appunto, che troviamo anche su delle copertine, non si distacca molto, fa una ricerca personale ovviamente migliore, e qui saremmo anche pronti per una diatriba, forse senza soluzione, senza fine, sul confine tra l'illustrazione raffigurativa e l'arte, diciamo, quindi sull'artigianato per intendersi, e l'arte invece personale della pittura. Dove sta il confine? Alcuni sono pittori comunque, direi che per un po' di tempo queste discussioni sono state fatte, ma adesso ci interessano poco. Sono state alla base degli equivoci del desiderio, appunto, di Walter Molino di diventare pittore puro e di tentarla con l'illustrazione, ma sempre illustratore era, anche quando era pittore. E Claire Onesti dà un diverso approccio, lo individuerei senza avere neanche gli strumenti poi per poterlo valutare più di tanto, ma insomma, con quello che ho, conoscendo il fumetto, lo valuterei con l'assenza o comunque la rarefazione della figura umana nei suoi dipinti. Ecco, questa è una grande differenza, non dover gestire una mimica, un'espressività facciale più di tanto nella sua arte dei dipinti ori. Mi risulta che l'ultima, almeno in ordine di tempo, che conosco, mostra dove di Claire Onesti c'è una traccia, è del 2011 e si trova a Caluso, che è in provincia di Torino, ed è una collettiva che si chiama Un istante tra passato e futuro, nel chiostro dei Frati Francescani. Ecco, più o meno questo non è tutto, c'è molto di più, perché per esempio ci sono un sacco di quotidiani che recensiscono queste sue opere, da Il Giorno, Il Corriere della Sera, Epoca, e poi anche delle riviste specifiche come Articultura, poi è presente nel Dizionario Illustrato dei Pittori, dei Disegnatori e Incisori Italiani Moderni e Contemporanei. Ecco, questa è la cosa che mi interessava dire, è che una delle sue attività, nel suo grande rigore appartato, riguarda appunto l'incisione. Ha una tecnica particolare che sviluppa a un certo punto, vi leggo un pezzetto che è stato scritto da una persona che non conosco, che però mi ha scritto in un blog del Sole 24 Ore che tengo da tempo, dove ho citato Claire Onesti, e questa persona ha scritto: ho conosciuto personalmente Clario, non sono riuscito a rintracciarlo, mi ha dato qualche informazione, dice questo: frequentando il direttore dell'Accademia di Carrara di Bergamo, impara l'arte incisoria, pratica alcune discipline e utilizza una punta meccanica vibrante per incidere su metallo, che richiede non solo forza fisica ma anche una straordinaria precisione, perché dopo aver tracciato il segno non è più possibile operare alcuna correzione. Fine del virgolettato. Così questa tecnica che lui sviluppa tra gli anni fine anni 60 e primi anni 70 in qualche modo lo fa diventare protagonista, e tra il 72 e il 74 divulga questa sua tecnica a degli studenti presso l'Accademia d'Arte di Urbino, e anche in questo caso raffigura paesaggi, le ville sui Navigli per esempio, cose non figure ma panoramiche. Risplende l'alba già e sono solo ormai, ripenso ancora a noi a poche ore fa, quando parlavo insieme a te, quando Parliamo allora di un fumetto noir, Miserere, che è la trasposizione da un romanzo in strips, è un lavoro con la sceneggiatura di Vito Bruschini, l'illustratore Vincenzo Giordano, per edizioni Giallochina. Ne parliamo con Laura Papa, che è curatrice di questa collana bestseller Giallochina. Ciao Laura. Ciao Fred, siamo partiti dal grande interesse che c'era nei confronti del giallo, del mistero, di tutto ciò che ruota intorno a magari le spy story, il noir, per poi prendere una parte di lettori altri, che sono i lettori del fumetto, e trasportarli in questo mondo. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto una serie di libri bestseller, in questo senso, che hanno avuto delle buone vendite in libreria, e ne abbiamo fatto dei fumetti. Il primo numero uscirà tra pochi giorni proprio con l'editore Pendragon di questa collana. Il primo numero è Miserere. Miserere racconta, è la storia, è una spy story più che altro, molto accattivante, molto anche vivace, e parla del secondo attentato al Papa, che è presunto attentato, che poi è stato sventato, e parte proprio da una soffiata che l'autore stesso, Vito Bruschini, ha avuto da una persona che stava indagando su questo secondo attentato. E l'idea della collana è molto importante, perché noi cerchiamo di far capire l'importanza della graphic novel. La graphic novel come non soltanto un'opera di letteratura, ma anche un'opera d'arte, perché il disegno e il fumetto in particolare è un'opera d'arte. E quindi è giusto che abbia il suo giusto ruolo nell'editoria. Il fumetto a volte si è già confrontato anche in modo famoso con il fantastico, pensiamo anche all'horror, al noir, pensiamo a Dylan Dog, oppure anche alla serie dell'intramontabile eroe Sherlock Holmes, ma invece è la prima volta che un noir si fa fumetto, quindi è un po' un esperimento. Sì, è un esperimento assolutamente, ma dato che c'è tanta attenzione attorno a questo genere, noi confidiamo che la stessa attenzione il popolo degli appassionati dei fumetti, ma anche chi non è fino adesso appassionato di fumetto, si possa avvicinare appunto a questo genere. Anche perché poi si crea un indotto tale per cui chi legge già i fumetti trova un qualcosa di nuovo in questa tipologia di opera, e invece chi non è abituato a leggere i fumetti magari può avvicinarsi, oppure chi non legge i libri attraverso la lettura del fumetto può avvicinarsi anche alla lettura del libro, perché la storia può essere talmente accattivante da poi rimandare al libro, al testo librario, oppure al fumetto stesso. Quindi secondo me fa bene all'editoria avere un altro genere, come succede con i film, no? I film magari ti portano a leggere il libro e vedere come è stata data la chiave di lettura e la prospettiva diversa rispetto magari all'immagine e al testo scritto semplicemente. Sì, pensare che un tempo invece, forse ancora oggi in certi ambienti, il fumetto è esecrato e condannato perché è nella letteratura di serie B e allontana dalla grande lettura, in realtà è il contrario. Può essere un ponte. Assolutamente il contrario, e noi vogliamo proprio dimostrare questo con questo progetto. Noi vogliamo dimostrare come il fumetto non solo non allontana dalla grande letteratura, ma addirittura può portare altri lettori ad avvicinarsi alla grande letteratura, ed è proprio questo che vogliamo dimostrare. Speriamo che con l'uscita di Miserere, che è il primo numero di Giallochina bestseller, si possa poi avere questo riscontro positivo, e quindi invitiamo tutti a potersi avvicinare a questo. Tra l'altro Vincenzo Giordano è stato bravissimo, la ricerca che è stata fatta sui personaggi e sulle ambientazioni di Roma, di Città del Vaticano, è stata così meticolosa che è durata tantissimo tempo. Noi a questo progetto ci stiamo lavorando da molti anni, cioè 2 anni praticamente, e quindi per un fumetto è un lavoro molto importante, perché c'è stata tantissima ricerca per i dettagli, perché abbiamo cercato di non tralasciare nulla. Vito Bruschini è stato anche molto bravo, perché ha narrato la vicenda, ha sceneggiato la graphic novel, e lui è l'autore del libro Miserere, e quindi da una parte è stato facile, dall'altra parte però ha dovuto adattarsi a un linguaggio diverso, molto più semplice, anche perché il lettering va inserito nel balloon del fumetto, e quindi un'altra tipologia di fruizione proprio del testo. Che noi abbiamo scelto una tipologia, per ogni numero avrà uno stile del disegnatore diverso, perché noi vogliamo anche promuovere gli stili, quindi non abbiamo una collana unica con un unico stile. Ogni disegnatore ha un proprio modo di fare i tratti. c'è magari il disegnatore che più ha più il tratto del fumetto americano, c'è il disegnatore più invece più dettagliato che ha il tratto pulito, c'è il disegnatore che è un po' più rotondeggiante, cioè abbiamo scelto comunque una diversità di stili che verranno poi tutti riuniti all'interno di questa collana. E noi stiamo già lavorando al secondo e al terzo numero, siamo molto contenti di questa cosa, speriamo che comunque vada bene e diamo la possibilità anche ai giovani autori, che siano essi disegnatori che sceneggiatori, di potersi affacciare su questo mondo. E tra l'altro abbiamo idea di fare per i prossimi mesi una collana specifica proprio per autori emergenti, il che è molto importante. Io ho la fortuna di avere un socio che è Alessandro Greco, che è l'ideatore del progetto, che vorrei ricordare che l'idea appunto è stata sua, e lui, oltre ad essere un appassionato di fumetti da tenera età, è un profondo conoscitore del fumetto, e quindi abbiamo avuto la possibilità di avere una persona competente che ci ha supportato in tutte quelle che sono state i processi di sviluppo di questo fumetto, di questa graphic novel. Che mistero è la mia vita, che mistero, sono un peccatore, l'anno 80.000, un menzognero, ma dove sono? La parola ora a Vito Bruschini, sceneggiatore di Miserere. Miserere è il nome in codice del killer incaricato dal KGB nel 1983 di uccidere Papa Wojtyla. Attenzione però, non è la storia dell'attentato fallito, quello di Aliachka, avvenuto 2 anni prima nel 1981, bensì racconta dell'organizzazione di un secondo attentato contro il Papa. Questo secondo attentato è rimasto segretato nelle carte dei servizi americani e sovietici fino a pochi anni fa. E anche questo, come il primo, venne organizzato dal KGB, che voleva assolutamente far fuori il Papa, perché Wojtyla continuava a finanziare con i soldi dello IOR, la banca vaticana presieduta da Marcinkus, continuava a finanziare il sindacato polacco di Solidarność, che stava dando spallate al governo del presidente Jaruzelski per ottenere più diritti civili e sociali. Il KGB sapeva bene che se il sindacato e Lech Wałęsa avessero vinto, tutto il sistema delle repubbliche sovietiche sarebbe caduto come in un effetto domino. Il servizio segreto sovietico affidò allora l'incarico a un super killer, dandogli carta bianca. Il killer, nome in codice Miserere, elaborò un piano sofisticatissimo per non far cadere la colpa dell'omicidio sulla Russia sovietica, e si fece aiutare, utilizzandoli come capri espiatori, proprio dai lupi grigi. Come sappiamo, l'attentato non ebbe luogo. Sappiamo tutti che Wojtyla morì nel suo letto, e il racconto della graphic novel è la ricostruzione minuziosa dell'attentato e del come e perché fallì. E infine sentiamo Vincenzo Giordano, illustratore di Miserere. Il mio approccio alla realizzazione del graphic novel Miserere, tratto dal libro di Vito Bruschini, è stato quello di realizzare, così come il libro, una spy story, un thriller molto, molto bondiano nello stile, che narra avvenimenti della parte finale della Guerra Fredda, con uno stile molto cinematografico, ma molto tipico anche dei tempi in cui la storia stessa è ambientata. Quindi non ci sono eccessivi modernismi e movimenti di camera, per utilizzare un linguaggio cinematografico, disordinati e vorticosi, o deformazioni prospettiche o di corpi e di cose. C'è invece uno stile molto classico, molto panoramico, primi piani americani, quindi molto cinematografico, dagli anni 60 fino a tutti gli anni 80, per dire. E in questo quindi ci siamo divertiti, mi sono divertito nel disegnare, a cercare di creare un contrasto quindi nella apparente classicità, tranquillità quasi della scena e dell'impostazione della vignetta e della tavola, a contrasto invece con molto spesso l'estrema violenza, sia fisica che psicologica, a volte perpetrata o subita dai personaggi, cercando quindi di ottenere un effetto di spaesamento, ecco, uno stile di disegno, spero elegante, ma comunque molto classico, per narrare invece una storia molto tesa e molto, molto violenta. Questo è quello che mi ha divertito più immaginare, questo contrasto, che un po' era quello che succedeva e che succede anche nei romanzi o nel cinema, soprattutto di quegli anni, quindi piuttosto lontano dagli stilemi moderni, ma che secondo me funziona, ha funzionato e spero funzionerà anche per i lettori bene in questo tipo di storia, ambientata in determinati anni, e che quindi secondo me richiedeva anche un determinato stile per immergersi meglio nell'atmosfera dell'epoca dei fatti narrati. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti!